330. Animelle alla bottiglia. Quelle d'agnello non hanno bisogno di alcuna preparazione. Quelle di bestia più grossa bisogna dare mezza cottura nell'acqua, spellandole se occorre. Le prime lasciatele intere. Le seconde tagliatele a pezzi e sì le une che le altre. Infarinatele bene e mettetele a rosolare nel burro, condendole con sale e pepe. Poi bagnatele con vino di Marsala o di Madeira e dopo fate loro alzare un solo bollore. Si può anche tirare la salsa a parte con una presa di farina, un pezzetto di burro e il vino. Se poi le aggraziate col sugo di carne, da buone che sono, diventeranno squisite.